nel mondo, 182esima trasmissione dedicata agli emigrati, album di Villotte. Il coro Jacopo Tomadini di Udine, diretto da Mario De Marco, vi farà oggi ascoltare alcune caratteristiche villotte popolari friulane. È un patrimonio di alto valore umano che affonda le sue radici nella civiltà di nostra gente che nel duro quotidiano lavoro, nel sacrificio e nella dolorosa emigrazione ha saputo esprimere motivi di profonda poesia che oggi più che mai è viva nel cuore dei troppi friulani sparsi nei 5 continenti. Ascoltate pertanto Ola la li li la Stai mi attenz Vegnin iu i ciarniei di ciarnie E li stat a ie passade Me agne iacume Devi partì O su su quant la finiso Ce tisovial besoline Ti prei ben mio E tu pieri ciò la nute Serenade Gli arrivade la giornade, ora ra la meggialino. Oh, Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.